Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, vorrei tornare sul tema relativo alla presunta inutilità delle province e alla conseguente necessità di eliminarle dall'ordinamento istituzionale. Su questo aspetto si sono sprecate parole e argomenti da parte di molti commentatori, senza mai entrare nel merito delle cose e limitandosi ad un più rassicurante e certamente profittevole approccio, che non saprei proprio come definire se non demagogico. Richiamerò sinteticamente gli argomenti che sono stati utilizzati. In primo luogo, gli abolizionisti, li chiamerò così, puntano sul risparmio di risorse finanziarie per aggiungere subito dopo che le province non servono perché in realtà si occupano di poche cose che meglio potrebbero essere svolte da comuni e regioni. Certo, eliminare un ente può comportare dei risparmi, si tratta però di stabilire quali. La voce più consistente del bilancio delle province virtuose è rappresentata dalla viabilità, siamo mediamente intorno al 60% della spesa, seguita dall'edilizia scolastica. Siccome non credo che gli abolizionisti vogliano eliminare le strade, le scuole e la loro manutenzione, immagino che il loro pensiero vada ai dipendenti e in secondo luogo ai politici. La voce spese per il personale, sempre con riferimento a province virtuose, non supera il 30% della spesa corrente, dedotta quindi di spese per investimenti, prestiti, partecipazioni in società, finanziamenti vari. Va detto che però vi sono soprattutto nel sud, province nelle quali la spesa prevalente, con punte a volte del 70% sulla spesa totale, è proprio quella per il personale. Per inciso, gli stipendi variano da circa 1.400 euro a 2.200 euro lordi mensili per il personale non dirigente. Non mi pare si possa parlare di stipendi alti. La spesa per i politici è variabile, ma mediamente, escluso per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, oscilla tra l'1 e il 2% della spesa corrente. Le proporzioni parlano da sole. Di fronte ai dati e alle difficoltà di dire con precisione quale sorte riservare ai dipendenti da eliminare, gli abolizionisti ribattono che il problema vero è eliminare il peso della politica, e dunque dei politici, e di assegnare le competenze ad altri soggetti, comuni e regioni, che potrebbero svolgerle meglio. Diamo pure un'apertura di credito a chi vuole meno politici in circolazione. Basterebbe trasformare la provincia da istituzione a organo tecnico, ovvero un'azienda pubblica economica con a capo un direttore pro tempore nominato, per esempio, dal presidente della regione o dai sindaci. Anche se dovesse scomodare la Costituzione, lo sforzo non sembrerebbe titanico. Carlo Federico. Gentile Carlo Federico, la sua lettera era molto lunga e articolata e ricca di spunti di sana e corretta riflessione, ma la sua ultima affermazione è quella centrale. Abolire le province non vuol dire abbandonare all'anarchia tutte le importanti competenze che attualmente questi enti mantengono. Vuol dire affidare il controllo politico e strategico di queste competenze agli assessorati regionali e lasciare che sui singoli territori operino strutture tecniche di intervento. Abolire quindi i presidenti, gli assessori, i consigli regionali. Il risparmio non sarebbe tanto nel costo diretto di questi organi, ma nel fatto che questo livello politico è soprattutto un centro di spesa. Non si vede perché la manutenzione di una strada, la costruzione di una scuola, la realizzazione di un depuratore debbano rispondere a criteri politici e non a una sana e corretta amministrazione. Gli uffici provinciali potrebbero agire sulla base delle grandi linee regionali. Detto questo, però, il tema dell'abolizione delle province appare ormai un tema del tutto accademico. Nell'attuale realtà politica non c'è alcuno spazio perché un dibattito di questo tipo possa andare avanti. La Lega ha troppi, e da parte sua giustificati interessi, a mantenere il controllo di queste realtà per pensare di poterli eliminare. A proposito del caso Emergency, tutti i medici hanno il compito di salvare vite umane e di prodursi nell'alleviare le sofferenze dei pazienti che vi si rivolgono. In Italia, ad esempio, vige però anche un altro obbligo, che è quello della denuncia dell'evento qualora la causa non sia da considerarsi fortuita. Un banale morso di un cane porta alla denuncia d'ufficio contro il proprietario, anche contro la volontà del malcapitato. Suppongo che avvenga lo stesso anche per un colpo di arma da fuoco. Magari se alle cure profuse dalle ONG venisse anche istituito l'obbligo di denuncia, i medici potrebbero effettuare il loro lavoro senza problemi. Un discorso a parte potrebbe essere fatto in quei casi dove, per reati di questo tipo, vigesse la pena capitale. In definitiva, Emergency può curare i civili e anche i talebani, a patto di denunciarne la presenza. Se lo vuole fare, l'etica medica è salva e non vedo dove sia il problema. Se non lo vuole fare, mi sorge il dubbio che l'etica medica venga usata per sdoganare altro. Mi viene in mente anche un altro piccolo dettaglio. Se una ONG va su un territorio di conflitto dove una delle due parti in causa è lo stesso governo da cui si aspetta tutela diplomatica, questo la rende meno libera, meno ONG o meno tutelata. Quindi, a parità di sforzi e vite umane da salvare, non era meglio farlo da un'altra parte? C'è qualcuno tra quelli che non hanno risposto de panza al quesito che ha fatto un ragionamento simile ed è riuscito a dare una risposta? Riccardo. In merito alla sciagurata decisione del sindaco di Adro, ho sentito parlare addirittura di bambini che pagano e bambini che non pagano il servizio mensa. Ho sentito affermare che è quindi giusto sospendere loro la somministrazione dei pasti. Ma quando mai i bambini pagano? Saranno semmai i genitori a essere inadempienti. E sarà a questi che il comune si deve rivolgere. Inoltre, apparentemente, la logica non fa una piega. Non paghi un servizio, non te lo fornisco. Il problema consiste nel fatto che di quel servizio usufruivano, ignari e innocenti, dei bambini. Ci sono mille modi per pretendere il pagamento dai genitori. Iscrizione al ruolo del debito, decreto ingiuntivo, pignoramento della casa, pignoramento dell'automobile, pignoramento del quinto dello stipendio. Un sindaco con un minimo di conoscenze tecniche avrebbe dovuto far controllare dai servizi sociali lo stato finanziario di queste 40 famiglie, aiutando quelle in stato di necessità, come prescrive la legge, e pretendendo il saldo del debito dalle altre con i mezzi previsti dalla legge. Danilo. Il sindaco di Adro ha fatto bene. Il servizio mensa, come quello del trasporto scolastico, l'uso delle palestre o piscine comunali, la scuola di musica, la frequenza degli asili nido e scuole materne comunali, fa parte dei servizi a domanda individuale e quindi non obbligatori per chi li garantisce né per chi li riceve o ne fruisce. Servizi che, per legge, il comune deve coprire obbligatoriamente con le rette e tariffe per una certa percentuale. Vale a dire che se la somma di tutti questi che costa tot al comune deve essere comunque coperta per una certa cifra, il comune non può decidere, ad esempio, di far pagare per intero o anche di più l'uso della palestra o l'uso delle sale pubbliche per i convegni e di tenere più bassa la percentuale di recupero per gli asili e le mense, purché il totale non scenda al di sotto di una certa soglia. Se il comune non recupera la percentuale di legge, allora deve mettere a bilancio una cifra che copra i contributi non incassati per la mensa. Alcuni comuni però fanno lo gnorri e scaricano su chi paga anche il costo di chi non paga. Fabio. I bambini sono forse responsabili delle azioni dei genitori? È giusto colpire un innocente per punire un colpevole? Perché trattare con sarcasmo un cittadino che cerca di rimediare all'ingiustizia commessa da un sindaco? Un prepotente che, sfruttando la sua posizione di forza, colpisce un innocente perché incapace di colpire il colpevole? Basta con queste ignobili accuse di buonismo a chi difende gli innocenti. Nessuno sostiene che i genitori siano innocenti, ma tutti sanno che gli enti pubblici possono recuperare le somme a loro dovute in altri modi. Come? Ad esempio con il fermo amministrativo della vettura, oppure attraverso un pignoramento presso terzi. In questo modo, invece, chi detiene il potere può colpire un innocente per sanzionare l'infrazione alle regole commessa da un altro. Michele. Il santo di Adro ha dato queste lezioni a noi tutti. L'extracomunitario ha diritto per sangue di non pagare i servizi e quindi assume in Italia il ruolo di uomo superiore per ragioni etniche. Chi dissente da questa politica viene insultato con lettere offensive. È inconcepibile ipotizzare che un debitore sia tale solo perché non vuole pagare, quindi l'insolvenza diventa un merito. Ultima cosa, sapete quanto costava alle madri islamiche di Adro la mensa per i figli? 1 euro al giorno. Non ce le avevano? Ma scherziamo. Ne consegue che la presenza in Italia di queste persone non solo non concorre al reddito nazionale, ma lo divora. Qualcuno non è d'accordo? Bene, ma non si permetta di disporre dei miei soldi che offro agli anziani, ai malati, ai disabili, ai perseguitati, ma non agli speculatori furbi. Marco Treviglio. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.